is and to give rather detailed instructions, meditation instructions on the sitting meditation, then also on the walking meditation, on mindfulness and general activities, and the interview process, and then a few general remarks about balanced practice. Quello che faremo questa mattina è dare delle istruzioni abbastanza dettagliate per quanto riguarda la meditazione seduta, la meditazione camminata, le attività del quotidiano e anche qualche indicazione su come effettuare i colloqui con l'insegnante e poi infine qualche considerazione su come realizzare una pratica equilibrata. Now, the Satipatthana Sutta and elsewhere recommend that one sit in full lotus. And among you, is there anyone who can do this? Il Satipatthana Sutta, poi anche in altri luoghi, nei testi, si consiglia di sedersi nella posizione del pieno loto. C'è qualcuno qui dentro che riesce a sedersi così? For a long time? Per molto tempo? Not necessary. So, if you can do it without developing major pains and aches, it's fine. Then assume that certain posture. But if not, then consider sitting in half lotus, which means you place one the foot of one leg on the thigh of the other leg. Quindi se riuscite a farlo senza particolari dolori e problemi, allora va bene. Ma in alternativa, se non ci riuscite, potete provare a sedervi nel mezzo loto, nella posizione del mezzo loto, che significa mettere il piede di una gamba sulla coscia opposta. That's it. Thank you very much. And so for you is actually easy. And so then, should even this sitting posture prove to be somewhat difficult to maintain for a longer period of time, then consider sitting like Sandra is doing right now in the so-called Burmese posture. So one foot or one leg is placed in front of the other. Quindi se anche la posizione del mezzo loto può risultarvi vi risulta difficile, allora potete sedervi nella posizione cosiddetta birmana, che è quella che ho io in questo momento, e cioè un piede è posto davanti all'altro, o una gamba davanti all'altro. Yeah. And then also, so in this posture, the legs are in no way intertwined. In questo modo le gambe non si incrociano, in nessun modo. Yeah. And then, what you could consider doing is one sitting you place the right leg in front, during the following sitting you place the left leg in front, and this way both of your legs will get used, will be used equally. Quello che potete fare è alternare le gambe, quindi in una seduta la gamba destra avanti, nell'altra seduta quella sinistra davanti, in questo modo entrambe le gambe verranno utilizzate in maniera equilibrata. Now, should sitting in the Burmese posture prove to be difficult, then there are other alternatives. You could consider sitting on a on a bench, or you might even consider sitting on a chair. And if you sit on a chair, then let's say because you have some chronic back problem or so, or you've had an injury, back injury, then do not sit against or do not lean against the backrest. Allora, se vi è difficile anche la posizione birmana, allora potete sedervi su un panchetto o addirittura su una sedia. Però se vi sedete su una sedia perché magari avete qualche problema alla schiena o qualche problema cronico o fisico, insomma. Fatelo, però non appoggiatevi allo schienale. Now, you know, the important point in choosing the sitting posture is to choose a posture that you can maintain, you know, comfortably for a longer period of time without developing any major, you know, pains and aches. L'idea è quella di trovare una posizione seduta che potete mantenere per un periodo di tempo, così, per un certo periodo di tempo, senza sviluppare dei dolori o dei problemi fisici di particolare entità. And so when you sit on the, you know, cushion, there's still, you know, one more, you know, point that I forgot to mention. You could also, you know, consider sitting on the one or two cushions. So in other words, you know, raising the buttocks off the ground, you know, will, you know, usually help, you know, to, you know, reduce or decrease, you know, the muscular, you know, tension in the thighs. Quindi è una cosa che non si è detto rispetto alla posizione seduta, potete considerare la possibilità di sedervi su uno o due cuscini, quindi tenendo i glutei leggermente sollevati, questo vi impedirà di creare inutili tensioni a livello delle cosce. And it might happen after a while, you know, that you don't need that second cushion anymore, so then you, you put that aside and then you just sit on one cushion, and later on, you know, even that one cushion might be too much. E potreste poi con andare del tempo vedere che due cuscini sono troppi, ne togliete uno e rimanete poi solo con un cuscino. Then, in terms of, you know, the posture of your, you know, hands, you can keep your hands either, you know, right in front of you, in the middle of you, and, you know, or, you know, you place them on both, you know, knees, like, you know, this, or, you know, you place them, you know, like this. So in any way, you know, or any way, it's fine. Per quanto riguarda la posizione delle mani, potete tenerle davanti oppure sulle ginocchia, o una sull'altra nel grembo, qualunque posizione va bene. In some, you know, spiritual traditions, you know, a lot of emphasis is given to, you know, the, you know, so-called mudras, or the position of your hands, and so, you know, in Vipassana meditation this is not all that important. The most important thing is really the development of intuitive wisdom. In molte pratiche spirituali si dà importanza alla posizione delle mani, le cosiddette mudra, ma nella pratica di Vipassana questo non riveste una particolare importanza. È più importante lo sviluppo della mente. Then in terms of your posture, you know, try to keep your back as upright as possible, ideally at an angle of 90 degrees to, you know, the ground or the floor you're sitting on. Cercate di tenere la spina dorsale e la schiena più retta possibile, idealmente ad un angolo di 90 gradi rispetto al pavimento. And certainly if you're not sitting in an upright posture, but rather in a slouched manner, then this may induce breathing difficulties, it may have an impact on your digestive system, also it may have an impact on the urinary system, and certainly then it certainly may also, most likely even, lead to sleepiness, it may induce sleepiness. Se non mantenete una posizione retta, questo potrà avere delle conseguenze sia sul sistema respiratorio, che sul sistema digestivo, che sull'apparato urinario, e inoltre potrebbe indurre a sonnolenza se vi incurvate in avanti. Okay, so sitting upright is really, you know, the best way to sit. Quindi sedersi in modo eretto è il modo migliore per sedersi. Then, you know, when you sit in meditation, you know, then you close your eyes and then, you know, you keep your breathing natural, which means at times it may be somewhat faster, you know, then in this case you just observe it as it is, at times it may be, you know, somewhat slower, in this case also you just accept it the way it is and you just observe it. Questi si tengono gli occhi chiusi e si pone l'attenzione sul respiro. Cosa importante è che il respiro sia naturale, quindi ci saranno delle volte in cui è più veloce, altre volte in cui è più lento. Cosa importante è osservare il respiro così come si presenta. Now, in the Mahasi tradition of Vipassana meditation, the primary object of observation is certainly the rising movement and falling movement of the tradizione Mahasi della meditazione Vipassana, l'oggetto primario di osservazione è l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, i movimenti dell'alzarsi e abbassarsi dell'addome. Now, when the rising occurs, then you take this as an object, you briefly label this as a rise or rising, and then you try to carefully observe the entire rising movement from its very beginning through the middle to its very end. Quando iniziate il processo dell'alzarsi dell'addome, allora lo etichettate mentalmente come alzarsi, e cercate di osservare attentamente tutto il processo dell'alzarsi dell'addome dall'inizio alla fine. And certainly the observation then should be complemented by or accompanied by knowing the nature of the predominant object. So by knowing the nature of the predominant object is meant knowing various qualities of your rising movement, such as the expansion of the abdomen, such as maybe some tension, some stiffness, some tightness. Ecco, accompagnato a questa osservazione dell'addome c'è l'elemento della conoscenza della natura di questo fenomeno, e per questo si intende il conoscere bene tutte le qualità dell'alzarsi dell'addome. Quindi potrebbe esserci una espansione, potrebbe esserci della rigidità, della tensione, della morbidezza. And the same instructions then also apply to the falling movement of the abdomen. So when the falling movement occurs, then we briefly label this as falling or just fall, and then we try to observe that certain falling movement very carefully from its very beginning through its middle until its very end, and again we try to know its certain nature. La stessa cosa vale per il movimento dell'abbassarsi dell'addome, quindi noi etichettiamo mentalmente abbassarsi, lo osserviamo attentamente dall'inizio fino alla fine e poi cerchiamo di conoscerne le qualità. So the, not, the knowing the nature of the falling movement then means knowing for instance the relaxation that might occur during the falling movement, and then later on at the end of the falling movement there might be some contraction. Allora, conoscere la natura del movimento della discesa dell'addome significa, per esempio, il notare che c'è una sorta di rilassamento quando l'addome va giù, e può essere che alla fine si provi anche una certa contrazione. And the sensations that occur during the rising movement and during the falling movement of the abdomen may not necessarily be the same. E le sensazioni che uno sente con l'alzarsi dell'addome e poi con l'abbassarsi dell'addome potrebbero non essere le stesse. So, pay close attention to what's happening. Quindi prestate un'attenzione molto ravvicinata a ciò che sta succedendo. No. As mentioned already last night, the maxim for the meditation instructions is to label, observe, and know the most predominant object that occurs in the body or the mind. Quindi, come abbiamo detto ieri sera, la massima, diciamo, la formula da tenere a mente per quanto riguarda la meditazione è di etichettare, osservare e conoscere qualsiasi oggetto predominante che sorga nel corpo o nella mente. And so we usually start with observation of the rise and fall, and then if some more predominant object arises, such as maybe a wandering mind, then we take the wandering mind itself as an object of observation, we label it, we observe it, and we try to know its nature. Once the wandering mind has subsided, then we resume observing the rising and falling movement of the abdomen. Quindi cominciamo sempre dall'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, dovesse poi sorgere un altro oggetto, allora andiamo, spostiamo la nostra attenzione su quell'oggetto. Per esempio, la mente potrebbe cominciare a divagare. Allora andiamo con l'attenzione verso la mente che divaga, la etichettiamo, la osserviamo, cerchiamo di conoscerne la natura e le qualità. Quando poi la mente smette di divagare, torniamo sul nostro oggetto primario che è l'addome. A few more remarks about the wandering mind might be helpful for you. Namely, when wandering mind occurs, then it could occur in the form of planning, so planning events of the future or in the future, or maybe remembering some events from the past, so that would be remembering, and or it could be maybe analyzing, or some reflections, or fantasizing, etc., etc. Ancora alcune parole riguardo la mente che divaga. Vi potreste accorgere, quando appunto la mente sta divagando, che in realtà quello che sta facendo è il programmare qualcosa per il futuro. Allora lo etichettate come programmare, oppure ricordare qualcosa nel passato, oppure sta analizzando qualcosa, o facendo delle considerazioni, o fantasticando. E anche in questo caso notate il tipo di divagazione. Mm-hmm. So at first, we can label in a rather specific manner, and later on we realize it's all, all these things boil down to just one thing, namely thinking or wandering mind. And so then we just label as thinking or wandering. All'inizio possiamo etichettarlo in maniera così più specifica, ma poi con l'andare del tempo ci renderemo conto che il fenomeno poi è sempre lo stesso, cioè o divagare o pensare, e quindi possiamo usare queste due etichette, pensare o divagare. And when it comes to the wandering mind, be very sure not to get caught up in the content of your thoughts. La cosa importante per quanto riguarda l'osservazione della mente che divaga è di non rimanere catturati nei propri pensieri, nel contenuto dei propri pensieri. Usually we think very highly of our thoughts, and oftentimes we think we immediately need to act on those thoughts, but in reality there's no need to do so. Spesso diamo molta importanza, molto credito ai nostri pensieri e riteniamo che noi dobbiamo agire sulla base dei nostri pensieri, ma questo non è necessariamente vero. So, all that is required is just to know, to know that some thinking is going on, and to observe it in a rather objective manner. Quindi l'unica cosa che è richiesta è di essere consapevoli che sta avvenendo il processo del pensiero e di cercare di farlo in una maniera un po' in a detached manner, did you say? Yeah, in una maniera detached or objective. In una maniera oggettiva, ecco, di osservarlo in modo oggettivo. And certainly if we're not careful with the wandering mind, then easily one thought may lead to another thought, and then the whole thing turns into a train of thought. And certainly then maybe 5 minutes might go by, or even 10 minutes might go by, and you're totally lost in thinking. E poi quello che può succedere è che si rimane catturati da questi pensieri, un pensiero conduce o porta ad un secondo pensiero e quello poi a un terzo, e senza che ce ne accorgiamo veniamo catturati in questa catena di pensieri che si succedono, e appunto senza accorgercene passano 5 minuti, anche 10 minuti, e noi siamo totalmente persi. And so the direction that we want to take is certainly to catch the wandering mind as soon as possible, as quickly as possible. So ideally within just a few moments after a thought has arisen. Quindi quello che vogliamo fare è cogliere questa mente divagante nel momento in cui sorge, quindi idealmente pochi attimi dopo che nasce il pensiero. Now, this may not be possible right away, but certain practice makes certain perfect, so eventually it will happen. Questo potrebbe non accadere subito, però con la pratica questo potrebbe succedere. Now, once the thinking has suddenly subsided, then we go back to the observation of the rising falling movement of the abdomen. We observe that for a while, and suddenly then, let's say, after a while some pain arises somewhere in the body. Allora immaginiamo che appunto cessa questo processo della divagazione della mente, noi torniamo all'addome e dopo un po' sorge un dolore nel corpo. And suddenly in this case we take the pain as our next object of observation, we label it as pain, and suddenly then we observe it in a non-reactive manner, in an accepting manner, and we try to know its nature. Allora portiamo la nostra attenzione su questo nuovo oggetto, prendiamo il dolore come il nostro nuovo oggetto di osservazione, di nuovo lo etichettiamo mentalmente, lo osserviamo in una maniera non reattiva e cerchiamo di, o una maniera non reattiva ed accettante, e cerchiamo di capirne la natura. Now, to know the nature of a pain means to, for instance, know the quality of the pain. What kind of pain is this? Is this a stinging pain, or is it a tearing pain, or a burning pain, or knife-cutting-like pain, etc.? Allora, cosa significa conoscere la natura di un dolore? Cercare di capire le sue qualità, cioè questo dolore è un dolore che ne so, bruciante o perforante, è un come uno strappo, oppure sembra di avere un coltello ficcato nel corpo, e via di seguito. And suddenly then we might also pay attention to the intensity of this pain. So how's the pain behaving in terms of intensity? Is the intensity increasing or decreasing or staying the same? Il secondo elemento che possiamo osservare è l'intensità del dolore. Questo dolore aumenta di intensità o diminuisce o rimane sempre uguale? And suddenly then, yet another observational category could be, how is our pain behaving in terms of location? So is it arising in one spot and suddenly then after a while disappearing in the same spot? Or is the pain arising in one spot and suddenly then after a while it's moving around, maybe in a zigzag manner or so, or it could be that the pain is spreading out over a larger area. Whatever the case may be, just know what is going on. Un altro elemento è quello della localizzazione del dolore, quindi il dolore sorge in un luogo e termina anche in quel luogo lì, oppure sorge in un luogo e poi si sposta da qualche altra parte, e se si sposta in che direzione si muove, per esempio potrebbe muoversi in una maniera a zig zag, il dolore si espande in un'area più vasta, qualunque sia il caso, la cosa importante è osservare quello che succede al dolore. And suddenly then, yet another very basic observational category would be, how is our pain doing in terms of time? So is this a pain that is lasting for a long time, maybe the entire sitting, or is this a pain that is suddenly lasting maybe for just a few minutes, or just a few seconds, or just a few moments? Un altro parametro di osservazione può essere quello del tempo. Allora, quanto dura questo dolore? Dura tutta la seduta, oppure dura solo qualche minuto o di più, o solo qualche secondo, qualche attimo, e poi se ne va? And suddenly then, when we have to deal with a physical pain, we try to do so with as much patience as possible. So as soon as a pain arises, we do not change our sitting posture right away. Cosa importante è di sviluppare la pazienza nei confronti del dolore quando sorge. Questo vuol dire non spostare, non cambiare immediatamente la nostra postura. Now, if we were to change our sitting posture every time a slight pain arises, then it would be very difficult to develop concentration. Every change of posture breaks the concentration. se dovessimo spostare il corpo ad ogni sorgere del minimo dolore, allora sarebbe molto difficile che si sviluppi la concentrazione. Ogni movimento del corpo in qualche modo interrompe questa concentrazione che si sta sviluppando. So, when a pain arises, you're trying to observe it with an accepting attitude, and don't see it as your enemy, but rather as your friend. And so, then, should a pain become excruciating and you really can't tolerate it anymore, okay, in this case, take the freedom to change your posture, but please do so slowly and mindfully. Allora, quindi se dovesse appunto sorgere un dolore molto forte e dovesse dire, no, prima ho detto di sviluppare la pazienza, ho detto sì. No, se dovesse il dolore diventare molto forte, allora in quel caso potete spostarvi, purché lo facciate in maniera molto lenta e molto consapevole. No, when when a pain has suddenly subsided, then we go back to the observation of the rising and falling movement of the abdomen. Ecco, poi quando un dolore se ne va, allora torniamo all'osservazione dell'addome che si alza e si abbassa. And so, then there are three aspects. Very basic aspects that are extremely helpful for the observation itself and also later on for the interview. Allora, ci sono due osservazioni che sono molto importanti da tenere a mente, due cose da tenere a mente sia nell'osservazione dei fenomeni e anche quando poi andate a fare colloqui. And those three aspects are, number one, the occurrence of the object, number two, the labeling of the object, plus the observation of the object, and the number three, knowing the nature of the object. Allora, questi tre aspetti sono il sorgere dell'oggetto, e il secondo elemento è l'etichettare l'oggetto insieme all'osservazione di questo oggetto che è sorto, e il terzo elemento, il terzo aspetto, è quello del conoscere questo oggetto. Now, in terms of the occurrence of the object, there's nothing special that you need to do. An object will arise all or will occur all by itself. Per quanto riguarda il primo aspetto, il sorgere dell'oggetto, non c'è molto che possiate fare, perché semplicemente l'oggetto sorge per suo conto. Then the second aspect does require your input, namely when an object has occurred, then you want to label it. So you want to choose a label, a term that, in simple words, expresses or states what object has arisen. Invece, per quanto riguarda il secondo aspetto, qui è necessario un vostro intervento, cioè dovete scegliere un'etichetta che descriva l'oggetto che è sorto in un linguaggio molto semplice, una parola, un termine. Yes. And let's say hardness has occurred in the body, so it becomes your next object of observation, and then because it's hardness, you label it accordingly as hardness or simply as hard. Per esempio, se sorge una sensazione di durezza nel corpo, allora questo sarà il vostro oggetto di osservazione e voi lo etichettate come durezza o semplicemente duro. Or if somewhere in the body some heat is arising, then you could take the heat as your next object and then you label it as certainly heat, you observe it, you try to know its nature, again you label it as heat, you observe it, you try to know its nature, and so on. Ecco, allo stesso modo potrebbe sorgere un'altra sensazione come quella del calore, e anche in questo caso lo etichettate come caldo o calore e poi lo osservate bene e cercate di conoscere la natura. Now, having labeled an object, you will then want to observe that object as best as you can, and you try to be with the object, you try to be aware of the object from its very beginning until its very end. Quindi dopo averlo etichettato mentalmente, allora volete cominciare ad osservare l'oggetto, a essere con l'oggetto, e questo significa seguirlo dall'inizio, da quando sorge, fino alla fine. And so, you know, this is the mindfulness aspect in your meditation practice. E questo è l'aspetto della consapevolezza nella vostra pratica di meditazione. And so, you know, then, you know, when you know, you're mindful of an object, when you're observing an object, concentration is also you know, present, you know, then you will come to know the nature of the object, which is our third aspect. And so, you know, this means you know, knowing the different qualities of you know, the object. This is the wisdom aspect. E quindi quando state osservando un oggetto c'è anche la consapevolezza, c'è anche la concentrazione che si sviluppa, e successivamente subentra l'aspetto della conoscenza, e questo è l'aspetto della, anche della saggezza, e laddove si sviluppa la saggezza. Now, among the three things, you know, the occurrence of the object, you know, the labeling and the observation, and you know, knowing the nature of the object, well, an object will occur by itself, so when there's nothing we have to do there, and you know, then, if on occasion we miss to label an object, okay, you know, that's all right, you know, but it's more important you know, to observe and to know, you know the object. Allora, di queste varie fasi, alcune sono più importanti di altre, nel senso che, vabbè, la prima fase, il primo aspetto, quello del sorgere, voi non potete fare nulla perché l'oggetto sorge. Se vi dimenticate o non riuscite a etichettare l'oggetto mentalmente, vabbè, questo non ha una grande importanza. Quello che è più importante però è la fase dell'osservazione dell'oggetto e la conoscenza delle sue qualità, quindi gli ultimi due. And certainly, so, you know, the observation is really important, and certainly even more you know, important, and based on observation arises certainly, the knowing aspect. Quindi l'osservazione è importantissima, poi basata sull'osservazione c'è la fase ancora più importante che è quella della conoscenza. Now, a common question that meditators ask after a few days of practice, I have two, three objects which are more or less equally predominant, which object should I choose and observe? Una domanda che viene fuori abbastanza spesso dai meditanti dopo i primi giorni di un ritiro è questa. Io sorgono diversi oggetti contemporaneamente e sembrano tutti ugualmente presenti. Quale di questi devo scegliere? Devo prendere come mio oggetto primario? And certainly the answer to this is you choose the one of your liking and then observe that. One at a time. La risposta è scegliete quello che vi piace di più e poi osservatelo, ma sempre uno per volta. So for the most part we want to observe one object at a time. Quindi soprattutto la cosa importante è che vogliamo osservare un oggetto per volta. No. There is the whole range of mental objects that we haven't spoken about yet. And certainly, so, you know, for instance, certainly, let's say joy arises in the mind. You know, we are delighted to be here at the center, etc. And certainly, then we could take the joy itself as an object. We label it accordingly as joy or gioia in Italian. And certainly, then we observe it in a non-attached manner and we try to know its nature. Poi c'è tutta la gamma degli stati mentali che non abbiamo ancora menzionato. Prendiamo per esempio la gioia. Potrebbe sorgere della gioia per il fatto che siete qui in un ritiro, piani di ciliegi. Allora di nuovo lo stesso procedimento, la etichettate come gioia, la osservate in maniera non senza attaccamento, distaccato, e cercate di capirne la natura. And certainly then we pay attention to the details of this joy. Is it increasing? Is it decreasing? What is it doing? Is it changing into some other mental state? And certainly eventually if it passes away then we observe and know that. E poi di nuovo osservate come si comporta questa gioia, se aumenta o diminuisce, se si trasforma in un altro stato mentale, per esempio. Poi quando se ne va si ritorna all'addome. or it certainly could be that maybe we experience some sloth and torpor, and so the head is nodding, and then we're falling asleep while sitting. So in this case, prior to the actual or prior to falling asleep, we try to be aware of the onset of sleepiness as much as we can. Un altro stato mentale che potreste evitare è quello del sonno, della sonnolenza, del torpore, la testa va giù. Allora, in questo caso quello che si può cercare di fare è, prima di cadere nel sonno, cercare di etichettare la sonnolenza al suo sorgere, proprio quando nasce, quando si presenta. When the mind gets sleepy, then what are the qualities of the mind at that point? Is your mind rather active, energetic, or is your mind gradually becoming more lethargic? And then what about your eyes, your eyes and your eyelids? What about your sitting posture and other aspects? Quindi quando notate il sorgere della sonnolenza, allora quali sono le qualità della mente? È una mente attiva e energica, o la mente sta diventando letargica? E allo stesso modo notate gli occhi, le palpebre, se si fanno pesanti, e anche la postura, se riuscite a tenere la postura eretta, insomma tutto quello che accompagna questo stato mentale. And certainly, so when it comes to some unwholesome mental state like sloth and torpor, you want to observe it in a non-reactive manner, so not disliking it, just accepting it and observing it. Quando sorgono questi stati mentali non salutari, come per esempio la pigrizia e il torpore, allora quello che il consiglio è quello di osservarli in una maniera non reattiva, e quindi semplicemente in maniera neutrale, e di accettare l'oggetto così come sorge. And then, as briefly indicated already last night, we have these various sense door processes, such as seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and certainly the thinking processes. And so if one or the other of those becomes predominant, then you take this as an object of observation, and then you label it accordingly, you try to observe it as best as you can, and you try to know its nature. Poi, come abbiamo detto anche ieri sera, ci saranno dei processi che capitano a livello sensoriale, quindi il processo visivo, quello uditivo, olfattivo, quello gustativo e tattile, e anche quello del pensiero. Allora, in questo caso, di nuovo la stessa procedura, quindi cercate di notare il sorgere del fenomeno, osservarlo in maniera così non reattiva, e poi conoscere la natura. So let us take the case of the hearing process. So the sound occurs, and then your attention goes towards the hearing process. And then just observe how this is happening, and whether maybe the volume of the sound is increasing or decreasing, and then whether the sound is a continuous sound or maybe not, and then is there any reaction in the mind towards the sound, etc. Prendiamo un suono, sorge un suono, e allora si attiva il processo uditivo. Provate ad osservare quello che succede a questo processo, quindi il suono come diventa più forte o più debole, per esempio il volume del suono, oppure non so come reagisce la mente a questo suono, c'è qualche reazione nella mente. And so for the hearing process too, as usual, you want to label it, you want to observe it, you want to know its nature. Anche qui, per il processo uditivo, volete notare il suo sorgere, osservarlo e conoscerne la natura. And certainly what is not certainly intended here is certainly to get lost in trying to find out the source of the sound. So is this the sound of maybe a motorcycle going by, or is this the call of maybe a cuckoo, or the sound of maybe some woodpecker, etc., etc.? Allora, quello che bisogna cercare di evitare è mettersi a ragionare su quale sia la fonte di quel suono. Cos'è? È una moto che passa sulla strada, oppure è il richiamo di un cuckoo, oppure è, non so, un picchio che batte sull'albero e via di seguito. Mm. Now, one of the vital factors for a good development in our meditation practice is continuity of mindfulness, and this factor cannot be overemphasized. Un fattore importantissimo nella pratica di meditazione è la continuità della consapevolezza, e questo non può mai essere troppo sottolineato, diciamo, troppo enfatizzato. And certainly what this means in practice is that one moment of mindfulness should be connected to the next moment of mindfulness, one moment after another. E questo significa che un attimo di consapevolezza deve essere collegato con quello successivo, cioè proprio un attimo dopo l'altro. Now, obviously, at the beginning of a retreat, your mindfulness is going to be somewhat poor, somewhat intermittent, and then trying to do something about it, trying to develop more continuity of your mindfulness. All'inizio di un ritiro è facile che la consapevolezza non sia continua, sia un po' a intermittenza. Allora fate del vostro meglio per sviluppare questa continuità nell'attenzione. Now, the mindfulness satna will not occur by itself. It needs to be accompanied by other mental factors such as aiming, so properly aiming or directing the mind towards the predominant object. And satna then, also we need satna some effort, and the effort will send or propel the mind towards satna the object. So with this, then the observing mind will then reach the object. Allora, la consapevolezza va un po' aiutata con degli altri fattori che vanno sviluppati. Uno di questi fattori è il mirare la mente verso l'oggetto, quindi essere in grado di direzionare la mente sull'oggetto da osservare. L'altro elemento importante è quello dell'energia, cioè la mente mette sufficiente energia affinché l'attenzione possa cadere direttamente sull'oggetto che deve essere osservato. And satna then, when these satna two factors are present, namely aiming and effort, then usually the mind satna will be rubbing against satna the most predominant object. Quando sono presenti questi due fattori, quindi quelli della mira e dell'energia, allora a questo punto la mente, in maniera abbastanza naturale e conseguenziale, è come se sfregasse sull'oggetto, cioè cadrà sull'oggetto e lo coprirà totalmente, e usa questo termine di sfregare. And certainly then, in this case, mindfulness can arise. E in questo caso allora è lì che la consapevolezza può sorgere. Now, these are the major points relating to the sitting meditation. Now, briefly, let me elaborate on some points connected to the walking meditation. Questi sono i punti principali che riguardano la meditazione seduta. Adesso il venerabile darà qualche indicazione su quella camminata. And the walking meditation is just as important as the sitting meditation. And there are a number of passages in the text that describe the Buddha himself doing walking meditation, or sometimes the Buddha and a number of his disciples doing walking meditation, or groups of or some of the Buddha's senior disciples with their disciples doing walking meditation. La meditazione camminata è tanto importante quanto quella seduta, ci sono vari punti nei testi in cui si indica il fatto che il Buddha stesso faceva la meditazione camminata, oppure il Buddha con i suoi discepoli, oppure i discepoli per conto loro, o come dire, i suoi discepoli più anziani con i loro studenti. Insomma, in vari punti è sottolineato il fatto che è importante anche la meditazione camminata. And so, the Dhamma can be gained in the sitting meditation, but it can also be gained in, you know, the walking meditation. Why not? Il Dhamma può essere ottenuto sia nella meditazione seduta che in quella camminata. Perché no? Now, especially at the beginning of our meditation practice, we want to, you know, spend about, you know, this, an equal amount of time in sitting and walking. So if we do 1 hour of sitting, then we will also want to do 1 hour of walking meditation. Later on, as our meditation practice will develop some more, then we might want to sit a little bit longer and walk a little bit less, and that would be okay. All'inizio della nostra meditazione è utile suddividere equamente il tempo dedicato alla seduta e alla camminata, quindi si farà 1 ora di seduta e 1 ora di camminata. Poi con il tempo, quando la pratica sarà più sviluppata, allora è possibile fare dedicare maggior tempo alla seduta e minor tempo alla camminata, e questo va bene. Now, probably one of the reasons for formal walking meditation is to maintain the mindfulness, concentration, and wisdom that has been developed in the earlier sitting meditation. Uno dei motivi principali dell'importanza della camminata in maniera formale, diciamo, è il fatto che si vuole mantenere in questo modo la consapevolezza, la concentrazione, la saggezza che si è sviluppata durante la seduta. And then, the mindfulness, concentration, and wisdom that has been developed during the walking meditation then can serve as a supportive factor for the next sitting. E invece poi la consapevolezza, concentrazione, saggezza che si sviluppa nella camminata può fare da base per quella che eventualmente si continuerà a sviluppare durante la seduta. No, during the first or second day of a retreat, we practice walking meditation in 3 forms, and so we divide 1 hour of walking meditation into 3 20-minute periods. During the first one, we do the walking meditation somewhat slowly, and then as the right leg moves, we label this as right step. As the left leg moves, we label this as left step. Nei primi 2 o 3 giorni di un ritiro consigliamo di suddividere l'ora di meditazione camminata in 3 fasi, ognuna delle quali di 20 minuti. Nella prima fase, quindi nei primi 20 minuti, noi rallentiamo il nostro passo e prestiamo attenzione alla gamba, e quindi etichettiamo con passo destro, passo sinistro. And so now our objective field, so field of potential objects, would be the entire leg. So if there's certain predominant sensation, let's say some tension or so occurring in the knee, then we focus our attention on this. Or if there's maybe some pressure or some pain in the foot itself, then our attention goes to this pressure in the foot. Il nostro campo di osservazione in questo caso è l'intera gamba, quindi se c'è una sensazione per esempio nel ginocchio, allora andiamo ad osservare la sensazione nel ginocchio. Se c'è una sensazione di pressione o tensione nel piede, portiamo l'attenzione sul piede. And then, as mentioned earlier on, we want to do this first type of walking meditation a bit slower than ordinary walking meditation, an ordinary walking. Questa prima parte della meditazione camminata la faremo in maniera un po' più lenta di un nostro normale passo quando camminiamo normalmente. Now, during the second 20-minute period, we slow down the speed of our walking, and we divide one step into two parts, namely the lifting process and the process of lowering and placing the foot on the ground. Nella seconda fase, quindi nei secondi 20 minuti, allora noi suddividiamo il passo in due parti e osserviamo come il piede si alza e come il piede si abbassa e tocca il terreno. So at the very beginning of the lifting process we label this as lifting, and then we carefully observe the entire lifting process from its very beginning until its very end. And the same thing we then do also for the process of lowering and placing the foot on the ground. E quindi in questo caso etichettiamo l'alzarsi del piede e quindi lo osserviamo da quando si solleva fino a quando si trova in aria, e poi allo stesso modo etichettiamo l'abbassarsi del piede e seguiamo tutto il movimento del piede fino a quando non tocca il terreno. No, during the third 20-minute period, we slow down our walking meditation even further, and then our attention, then we divide one step into three parts, namely the lifting process, the forward movement, and the lowering placing of foot near the foot. Negli ultimi 20 minuti della camminata noi rallentiamo ancora di più e suddividiamo il nostro passo in tre parti. In questo caso quindi osserveremo l'alzarsi del piede, l'avanzare del piede e l'abbassarsi. And so the lifting process has been described already, the lowering process also has been described already. So what remains is just to describe the forward movement. So at its beginning we briefly label as gliding, or forward movement, as you like, and then we carefully observe that gliding process, and we try to note the predominant sensations that occur during that particular phase of the walking meditation. Quindi abbiamo già descritto i movimenti del sollevarsi del piede, dell'abbassarsi, quindi rimane l'avanzare del piede. Allora, anche in questo caso cerchiamo di notare tutti i movimenti del piede mentre avanza, lo etichettiamo come avanzare, e cerchiamo di cogliere tutte le sensazioni che accompagnano questo movimento. No. During the very first type of walking meditation, so dividing one step into left step, right step, the entire leg is your field of potential objects. During the second and third type of walking meditation, our field of objects gets reduced to the foot itself, to any predominant sensation that occurs in the sole of the foot, inside of the foot, or on top of the foot. Allora, nei primi 20 minuti della camminata abbiamo detto che il campo di osservazione degli oggetti era riferito all'intera gamba o alle intere gambe. Invece nella seconda e nella terza fase il nostro campo di osservazione è il piede, quindi tutto ciò che avviene all'interno del piede o sotto la pianta del piede o sopra il piede. Now, when you do the walking meditation, choose yourself maybe at a stretch of 5 to 10 meters, somewhere here in the building or outside if the weather is permitting, and then without trying to get anywhere, without trying to reach a certain destination, you just mindfully walk up and down, up and down. Allora, per quanto riguarda il dove fare la meditazione camminata, trovatevi un posto adeguato o dentro l'edificio o fuori, tempo permettendo, e la lunghezza del percorso dovrebbe essere di 5-10 metri e poi semplicemente andate avanti e indietro. Ricordate che non state cercando di raggiungere nessun luogo e quindi semplicemente questo camminare in su e in giù lungo il percorso. And please do know that there's a huge difference between ordinary walking around, walking down the street, and this form of formal and mindful walking. E tenete a mente che c'è un'enorme differenza tra il normale camminare lungo una strada, per esempio, e invece questa forma di meditazione camminata formale e consapevole. And certainly then, when you do the walking meditation, please assure that you assume an upright posture and walking posture. And oftentimes beginning meditators have a tendency of looking at their feet. What are my feet doing? Are they working properly or not? And this is not necessary. If you keep doing this for an extended period of time, you will end up with a stiff neck. È anche una cosa importante tenere anche qui la posizione eretta mentre si cammina. Una delle tendenze dei meditanti principianti è quello di guardarsi i piedi e di chiedersi cosa sta facendo il mio piede. E questo, se lo si fa per un periodo prolungato, può risultare in un torcicollo o in un collo molto rigido. And you might even end up with major back problems. E potrebbe anche causare problemi alla schiena. And then, when you choose your path for the walking meditation, make sure that your path will not cross with the path of others. This may have, or this may lead to social friction. Poi nel scegliere il vostro sentiero, assicuratevi che non vada a incrociare quello di altri meditanti, perché questo potrebbe essere una fonte di frizioni sociali. Even though you don't possess anything here at Pian di Ciliegi, you might still have this notion, oh, this is my path, and someone is invading my path. Anche se qui a Pian di Ciliegi potreste non avere questa, non avere molte proprietà, diciamo, però può sorgere in voi questa nozione, ah, questo è il mio sentiero, c'è qualcuno che mi sta invadendo il mio sentiero. And certain meditation centers in Asia, it happens when foreigners and Asians practice together, it happens again and again that the Asians now love to crisscross. So when they do their walking meditation, it's all over the the hall or the place. And then they take a turn here and a turn there and so on. It's really upsetting many Westerners. In Asia succede molto spesso, quando ci sono occidentali e orientali che fanno una camminata insieme, gli orientali hanno un po' questa abitudine di andare a zigzag o comunque di incrociare il percorso degli altri meditanti, ed è molto molto fastidioso per gli occidentali questo fatto. And so, to some extent, this shows a certain, sensitivity and a strong notion of my path. E questo quindi denota una certa sensibilità e anche questo concetto del mio sentiero. On behalf of the Western practitioners. Questo ovviamente riguardo i praticanti occidentali. For some of the Asian meditators, there's no problem whatsoever. Per quasi tutti i meditanti orientali non c'è assolutamente nessun problema. So when we do the walking meditation, we try to do so as slowly as possible. And there's even a maxim here: the slower you do your walking meditation and also later on general activities, the more progress you will have in your meditation practice. Quindi anche qui il consiglio è quello di rallentare il più possibile, e anche qui vale una specie di, come si può dire, una massima, che è quella che vale anche poi per le attività quotidiane, che più si va lentamente e più il progresso sarà veloce. And so, then, during the walking meditation, try to restrain your senses, especially the eyes. Even though it is beautiful, very beautiful around here, you don't want to look around here and there. This will make it very difficult to develop concentration. E un'altra cosa, durante la camminata, cercare di evitare di guardarsi in giro, insomma, di perdersi nel guardare dintorni, seppur belli, ma il fatto di limitare i sensi, in questo caso la vista, può aiutare a sviluppare la concentrazione. No, when you do your walking meditation, then make sure that you keep your hands either in front of the body or keep them behind your back, but definitely don't walk around like some villager would most likely do. Quando camminate tenete le mani o davanti a voi o dietro di voi, ma sicuramente è da evitare questo muoversi delle braccia ai lati del corpo come farebbe un qualsiasi persona del villaggio che passa di qua. The next area that we need to cover are the general activities. So this covers activities such as waking up, the process of waking up in the morning, the process of getting out of bed, the process of getting ready and wearing one's clothes, and then the process of walking down the stair in a case, and then gradually coming into the meditation hall, and then the breakfast, and all these things like opening, closing of doors, and slipping into one's shoes, kind of stepping out of one's shoes, etc. Rimane da dire qualcosa rispetto alle attività quotidiane, e per questo si intende per esempio il risveglio al mattino, il prepararsi per la giornata, l'indossare i vestiti, il lavarsi, scendere le scale o l'infilarsi le scarpe o togliere il piede dalla scarpa, aprire e chiudere le porte, consumare i propri passi. È tutto quello che uno deve fare durante la giornata. And even activities such as brushing one's teeth or taking a shower should be done mindfully. E poi inoltre anche attività come il lavarsi i denti o il fare la doccia, tutte queste attività vanno fatte in modo molto consapevole. So trying to do all of these activities as slowly and mindfully as possible, and just like in the walking meditation, try to restrain your senses. E anche qui cercate di fare tutte queste attività nel modo più lento e consapevole possibile. E così come abbiamo detto per la meditazione camminata, limitate l'uso dei sensi. Oftentimes, beginning meditators don't have much appreciation for mindfulness and general activities, but this is really a mistake. Spesso, soprattutto i meditanti principianti, non danno molta importanza all'attività o alla consapevolezza nell'attività quotidiana, e questo è un grosso errore. And in a sense, we try to make our mindfulness as continuous as possible. We should then extend this mindfulness also to all of our general activities. Siccome stiamo cercando di sviluppare questa consapevolezza continua, allora è importante cercare di estenderla anche alle attività generali. No, you might ask, well, what's so special about opening and closing a door? Mindfulness, I'm doing this all, I've done this all my lifetime. Yes, but you've been absent-minded most of your lifetime. Potreste chiedermi, ma cosa ha di tanto speciale aprire e chiudere una porta in maniera consapevole? Io lo faccio da una vita. E Venerabile dice sì, è proprio così, però il più delle volte l'hai fatto senza pensare, in maniera del tutto inconsapevole. And there are many different ways of opening and closing doors. So out of anger you can slam a door with a big noise, or you can do it with utmost mindfulness and then also positive mental states, and no one will even hear that you're opening or closing a door. Ci sono un'infinità di modi per aprire e chiudere una porta. Uno lo può fare con una mente piena di rabbia e quindi magari lo sbatte, oppure la può fare in maniera molto lenta e consapevole, in questo caso controllate, che nessuno si accorga neanche che tu abbia aperto e chiuso una porta. Now, briefly, a few points, main points on or related to the interview. Try to be ready for the interview. Try to be at the interview venue in time. Qualche parola sui colloqui. Cercate di essere in orario per i vostri colloqui. And before you enter the interview room, please have at least a rough idea of what you want to say. Some meditators, what they do is they come in, they sit down, and then buongiorno, etc. And then they start thinking, oh, what happened during the last 24 hours? This is a little bit late. Allora, cercate anche di avere un'idea così generale di cosa volete dire durante il colloquio, perché alcuni meditanti si entrano nella stanza, si siedono e poi cominciano a pensare, ma vediamo cos'è che mi è successo nelle ultime 24 ore. Beh, lì è un po' tardi per pensarci. And so then preparations for the interview start already when you're actually doing your sitting and walking meditation practice. Quindi la preparazione per i colloqui inizia già mentre state facendo la seduta e la camminata. And so after a good sitting meditation, feel free to jot down a few of your major experiences in a notebook, unless you have a computer-like memory. E quindi sentitevi liberi di buttare giù alcune parole sulla vostra esperienza subito dopo la meditazione seduta, a meno che non abbiate una memoria tipo un computer che vi ricordate tutto. And so, writing down one's experiences right after sitting and right after a walking session really helps to bring more details into the report at interview. Quindi il fatto di scrivere le vostre esperienze subito dopo una seduta o una camminata vi aiuta a focalizzare su molti dettagli che poi sono utili durante i colloqui. Let's say you've had a very good sitting yesterday and then comes the interview this morning and then you're sitting there and you haven't written anything down and then you can barely remember the details of your very good sitting. Immaginate di fare una buona seduta nel pomeriggio, per esempio, poi il mattino dopo andate ai colloqui e non riuscite quasi a ricordare quello che è successo in quella seduta, fate molta fatica a ricordare. And then, when you write down your experiences, try to do so in a sequential or chronological manner, meaning start describing what was your rising falling like at the beginning of the sitting and then what happened in terms of major experiences in the course of one sitting. Quando scrivete appunto i vostri appunti sulle vostre esperienze di una seduta, per esempio, fatelo in maniera cronologica e sequenziale, quindi cominciate descrivendo come avete percepito l'addome all'inizio della seduta, poi man mano le varie esperienze che si sono presentate. Then when you come in for the interview, try to be as mindful as possible. Cercate di essere molto consapevoli quando entrate nella stanza per i colloqui. And then in terms of forms of respect, you can choose whatever seems appropriate for you. So you can just sit down and start your report, or maybe you go like this, or you bow down as you like. Per quanto riguarda le forme di rispetto, che sono usuali per i monaci, potete fare quello che ritenete più opportuno, quindi potete anche semplicemente sedervi, cominciare il vostro colloquio, o potete giungere le mani, salutare in questo modo, o potete fare un inchino, come preferite. No. Usually what happens is meditators who are new to the meditation practice, they don't yet understand about forms of respect, but then gradually as they're doing their meditation and wonderful experiences come up, they tend to appreciate, they come to appreciate Satya, the Dhamma, and Satya from this then quite naturally respect arises. Chi è un po' nuovo alla meditazione può non comprendere molto bene o non essere portato a mettere in atto queste forme di rispetto, ma con l'andare del tempo, con lo svilupparsi della pratica e anche con delle importanti esperienze riguardo al Dhamma, allora queste forme di rispetto vengono a essere abbastanza naturali, sorgono in maniera naturale. And then, when you give your report, trying to be short to the point, and trying to stick to principles such as accuracy, brevity, and precision. Quando poi arrivate al momento di riferire la vostra esperienza, cercate di andare subito al dunque e seguite il criterio, i tre criteri. Dell'accuratezza, della brevità e della concisione. And that's it, is it? Yeah, correct. And something then, when you give your report, don't get nervous. There's no need to get nervous. The teachers sitting here, Hannes and myself, we're here to support you in your meditation practice. And just be relaxed. E per quanto riguarda possibili stati di ansia rispetto al colloquio, Rablin vi invita a essere assolutamente rilassati, perché sia lui che Hannes sono qui per aiutarvi nella vostra pratica, quindi non c'è motivo di agitarsi per il colloquio. And certainly then, try to report your best sitting, your best walking meditation. And certainly here, best could also mean that sitting or that walking session that best describes your practice during the last 24-hour period. Sometimes we're having a hard day, and the sittings don't seem all that great. Never mind. Just describe or pick that sitting that best describes your overall development. Poi vi si chiede di descrivere la vostra miglior sessione seduta e la vostra miglior sessione camminata. Allora uno può chiedersi qual è la migliore seduta, la migliore camminata. Allora qui si intende quella che meglio di altre rappresenta o esprime la vostra pratica nelle 24 ore precedenti. Quindi potrebbe essere anche una seduta in cui avete avuto molte difficoltà, va benissimo, prendete quella come seduta perché è quella la seduta più rappresentativa della fase in cui vi trovate. And certainly when you give your report, you could certainly again make use of those certain three aspects, namely occurrence of the object, and then the labeling plus the observation of the object, plus as number three, knowing the nature of an object. So to give you an example, let's say pain occurs, so that's your occurrence, and then I've labeled this as pain, and then carefully observed the pain from its very beginning until its very end, and then while observing it, I then came to know that this is maybe a stinging pain. Ok, quindi anche qui possiamo usare i tre parametri di cui abbiamo parlato prima, quindi per ogni quindi c'è l'insorgenza dell'oggetto, c'è l'etichettatura mentale dell'oggetto, l'osservazione, che vanno insieme, diciamo, e poi l'aspetto del conoscere quell'oggetto. Quindi per fare un esempio, uno può riportare: è sorto un dolore, io l'ho etichettato come dolore, l'ho osservato dall'inizio alla fine e poi ho scoperto che quel dolore era un dolore, come si può dire, pungente. And so sticking to these three aspects of occurrence, labeling, observation and knowing, it may seem like somewhat mechanical, but certainly it helps to structure your report. Può sembrare seguire questi tre aspetti riguardo agli oggetti che sorgono, può sembrare un pochino meccanico, però vi dà una struttura e vi aiuta a riportare quello che avete effettivamente sperimentato. And then when you give your report, you give your report in simple language, so there's absolutely no need to use some highly complicated technical language. Quando fate il vostro colloquio, vi prego di utilizzare un linguaggio molto semplice, non c'è nessun bisogno di scegliere parole tecniche, diciamo. And so then, when you give your report, make sure that you report according to reality and not according to imagination or what you think the teacher might expect from you. E quando poi riferite le vostre esperienze, fatelo sulla base della realtà, di ciò che avete effettivamente sperimentato, e non sulla base di vostre fantasie o ancora riguardo ciò che l'insegnante potrebbe aspettarsi da voi. Sometimes a meditator student may want to impress the teacher by reporting some fabulous things, but these are then only made up from imagination. A volte uno studente vuole magari dare una buona impressione all'insegnante, allora racconta delle incredibili esperienze, ma questo spesso sono solo frutto di fantasie. Then there may be slight differences in the approach of guiding you during the interviews, differences between one teacher and another teacher, and try to be flexible. Potrebbero esserci delle differenze negli approcci rispetto ai due insegnanti che vi seguiranno durante il ritiro. Il venerabile vi invita a essere flessibili a questo riguardo. And certainly then, try to see the interviews as an opportunity develop your meditation practice. Having to come for an interview will have a galvanizing effect on your meditation. You will put in more effort. Quindi cercate di vedere i colloqui come un aiuto per la vostra pratica di meditazione, e spesso il fatto di dover andare a un colloquio ha un effetto, come dire, energetico, lo dice, galvanizzante, no, rispetto alla pratica, cioè farà in modo che voi mettiate più sforzo nella vostra meditazione. Now, during the first few days of a retreat, commonly or certain difficulties commonly arise, and those are sleepiness, wandering mind, pains and aches, and some difficult mental states, and based on these things, a certain sense of discouragement might arise. Nei primi giorni di un ritiro ci sono determinati fattori che possono disturbare, e questi sono una certa sonnolenza o la mente agitata o che divaga, dei dolori nel corpo o dei fastidi, degli stati mentali spiacevoli, non salutari. And then the discouragement. E poi tutto questo può portare a una forma di scoraggiamento. And so that's just common among beginning meditators. Just know it, accept it, and then try to work through these initial difficulties as best as you can. And you will see you can do it, and eventually these will subside. E questa è una cosa molto comune tra i meditanti che iniziano la meditazione o che iniziano un ritiro, e cercate di affrontarli serenamente, sapendo che appunto prima o poi effettivamente se ne andranno. Now, a few last points regarding to balanced practice. Some of you, it seems, are relatively new to the meditation practice, so it's good to know these and keep them in mind. Ancora alcune parole su quello che viene considerato una pratica equilibrata. Alcuni di voi sono abbastanza nuovi alla meditazione, per cui vale la pena di tenere a mente queste indicazioni. Some meditators on retreat, for one reason or another, do not drink enough liquids, and suddenly they get dehydrated. This may be very serious, especially in dry countries. Alcuni meditanti, non si sa perché, ma durante i ritiri tendono a bere pochi liquidi e questo porta a una forma di disidratazione. Questo soprattutto in paesi molto dry and hot e caldi. So, make sure that you drink a fair amount of water and tea and not every day. Quindi assicuratevi di bere una giusta quantità di liquidi, acqua o tè, tisane, eccetera. And suddenly then, retreatants, when it comes to food, eat very little, or as time goes on, might eat less and less, or even start fasting. Please don't go for this. Alcuni meditanti durante un ritiro mangiano molto poco e poi man mano che procede la pratica mangiano sempre meno, arrivano addirittura a digiunare. Vante vi dice di non farlo. And intensive Vipassana meditation requires that a retreatant eats a moderate amount of food to provide the body with nutrition and strength. E quindi una pratica intensiva di Vipassana richiede che i meditanti mangino una quantità moderata di cibo, perché questo gli fornisce nutrimento per il corpo e energia. Then, when it comes to food that we've taken, this may then cause constipation. And if you end up being constipated for 3-4 days, then please immediate or do something about it. Contact Jani or Sandra for some laxatives if you didn't bring any yourselves, and maybe do some come and ask, and then I'll be happy to give you some further advice. Un altro problema che sorge abbastanza, in maniera abbastanza comune è quello della stitichezza a livello fisico durante un ritiro. Allora Marco vi consiglia di prendere dei lassativi in questo caso, di chiedere a me o a Gianni, oppure se avete bisogno di ulteriori indicazioni di rivolgervi a lui stesso. And so, if one gets too constipated, then that's not going to be helpful for your meditation practice. You might end up getting quite irritated. Perché questa stitichezza ha un effetto anche sulla pratica meditativa e risulta in una irritazione. Now, another point, mentale, no? Another very basic point to keep an eye on is your night sleep. You want to make sure that you get enough sleep. And by all means, do not deprive yourself of, willfully deprive yourself of sleep. Thinking that the Buddha practiced through the whole night before he gained enlightenment, and now I'm here at Bien di Chaligi, and I need to repeat this, and then you do you practice through the whole night. So please don't go for this. Un'altra cosa su cui fare attenzione è la quantità di sonno, quindi non deprivatevi del sonno in maniera intenzionale. Alcuni meditanti possono pensare, il Buddha è stato sveglio tutta la notte prima di raggiungere l'illuminazione, quindi anch'io che adesso ho la possibilità di praticare qui a Pian dei Ciliegi, mediterò tutta la notte e starò sveglio. Ecco, vi invita a non farlo, quindi a dosare bene la quantità di sonno. And so, in the course of the meditation practice, our need for sleep will fluctuate. At times we may need some more sleep, at other times, based or because of the practice, we may get by with less sleep. Quindi il nostro bisogno di sonno potrebbe fluttuare, variare durante un ritiro. E in alcuni momenti ne avremo bisogno di più e in altri momenti potremmo invece avere bisogno di poche ore di sonno. And there are times when the practice is going very well, when meditators do get by on very little sleep. And so if you then practice well, that's okay. At certain, those certain times, but if it happens willfully, deliberately, and it's not corresponding to one's level of insight knowledge or so, then it's not certainly recommended. Ci sono delle fasi nella pratica in cui effettivamente uno può, come dire, ha bisogno di molte meno ore di sonno, e allora se uno arriva a quella fase e effettivamente poi dorme poco per dedicarsi alla pratica, allora va benissimo. Ma se uno invece in maniera forzata, intenzionalmente, si appunto depriva del sonno quando non ha raggiunto quel livello degli insights, allora questo può avere delle conseguenze. No, gravi. Some meditators on the retreat, they think they need to be, they think they need to set a new record when it comes to overcoming excruciating pains. And so don't forcefully push yourself through excruciating levels of pain. Alcuni meditanti vengono a ritiro con l'idea che devono battere un record per quanto riguarda la sopportazione di un dolore lacerante, diciamo. E allora venerabile, anche qui vi invita a non farlo, cioè a non sforzarvi di stare seduti e sopportare un dolore quando diventa troppo forte. Challenge the body or go beyond your physical limitations, you might end up damaging one or both of your knees or hurting yourself in other ways. Se sfidate i limiti del vostro corpo e andate oltre questi limiti, allora potreste causare dei danni seri a livello fisico. So it's better in the case of an excruciating pain to then simply mindfully first label the intention to change the posture, and then to label, observe and know the entire process of changing one's posture. Nel caso di un dolore insopportabile, allora è molto più utile, più saggio, allora cambiare consapevolmente, lentamente la posizione e di nuovo etichettare, osservare e conoscere tutto il processo del cambiare posizione. Now, some meditators wrongly assume that in Vipassana meditation no thoughts should be occurring, and that's a wrong assumption. Molti meditanti suppongono che nella meditazione di Vipassana non dovrebbero sorgere dei pensieri, e questa è una supposizione errata. Instead, thoughts should be included as an object or as objects of observation. Invece, i pensieri dovrebbero essere presi come oggetti di osservazione. And then, let me see. Try to try not to increase or unnecessarily put a lot of pressure on yourself by having high expectations in terms of attainment of the Dhamma, or by competing with other meditators. So thinking, oh, such and such meditator can sit still for 2 hours, let me try to do the same thing. Quindi vi invita anche a non creare delle aspettative troppo alte riguardo al raggiungimento del Dhamma o degli insights, e allo stesso tempo di non fare dei confronti con altri meditanti dicendo, beh, lui riesce a star seduto 2 ore, allora anch'io mi sforzo di star seduto 2 ore. Questo mette molta pressione sulla vostra pratica. And then some meditators try to exercise complete control over unwanted states of mind. So let's say you've decided you no longer want to accept worries, and you just push out worries whenever they come. That's not the way to go. But rather adopt an allowing and accepting attitude and be mindful of the respective mental state. Alcuni meditanti così si sottopongono a molta pressione perché non accettano di avere determinati stati mentali negativi. Allora quello che succede, per esempio, è che decidono che non ne possono più di tutta questa preoccupazione. Allora quello che fanno è spingere fuori dalla mente la preoccupazione. Questo non è il modo di gestire la cosa. Piuttosto è meglio sviluppare un atteggiamento di accettazione per gli stati mentali non salutari e poi prenderli come oggetto e quindi di nuovo cercare di conoscerli. Now, what some meditators are doing is, let's say the state of fear is arising, and then they push the mind into more into the fear gets greater and greater and greater, and eventually they no longer know what to do with it. Oppure quello che può succedere è che sorge la paura e a quel punto il meditante decide di affrontarlo, di entrarci dentro proprio a capofitto e quindi mette molta molta tensione nel osservare questa paura, la paura cresce a dismisura e il meditante non sa più come gestire la faccenda. And the same thing may happen with worries, with guilt and self-judgments. La stessa cosa può succedere con le preoccupazioni, i sensi di colpa o l'autogiudizio. And so in this or under these circumstances, remember that balanced practice is called for. Allora, ricordatevi che in queste circostanze la cosa più utile da fare, la cosa richiesta, è una pratica equilibrata. So don't push your mind too hard, you might regret it, and should you be experiencing extreme states of fear and worries and mental hyperactivity, etc., or depression, then report these states to your teacher. Quindi, quindi non spingete troppo la vostra mente nel caso di stati mentali negativi. Se doveste fare esperienza di un'eccessiva paura o preoccupazione o depressione o iperattività, allora riportatelo all'insegnante. And then, in general, it, or experience shows that meditators do best when they observe the predominant objects with a calm, detached, and yet very alert state of mind. L'esperienza insegna che i risultati migliori si hanno quando il meditante riesce ad osservare l'oggetto in una, con una mente calma, accettante, ma allo stesso tempo sveglia. Now, when you sit in the meditation here at Biandi Chilinji, all sorts of mental states may come up, related to maybe some past experiences and whatnot, and so then try to be mindful of those as best as possible, and observe them with mindfulness, and deal with them in a balanced, in a realistic manner. Mentre siete seduti qua in meditazione, a Piandi Ciliegi potrebbero sorgere degli stati mentali connessi con esperienze difficili del passato. Allora, se questo dovesse accadere, cercate di osservare di nuovo con uno spirito di accettazione, di pazienza e soprattutto in questo modo molto equilibrato. And so this then brings us to the end of this instruction session. E quindi con questo noi concludiamo questa sessione di istruzioni. And so, do you have any questions? Ci sono delle domande? Absolutely. Everything is clear. So then, kindly, use these detailed instructions, apply them to your meditation practice as best as possible, and certainly then you will surely benefit from them. Quindi cercate di seguire queste istruzioni così dettagliate, applicate alla vostra pratica meditativa e sicuramente ne trarrete dei benefici. And certainly should within the next few days some questions come up about how to practice properly, etc., then ask your questions during the interview. Se dovessero sorgervi delle domande durante il ritiro riguardo come praticare, allora potete porle al maestro durante i colloqui. Voilà, that's it for now. Anche adesso finiamo qui. Thank you very much for translating. Okay.